Abbiamo sentito che reclutate equipaggio! Portateci con voi! Rispondete! Cosa vi spinge a salire su questa nave? Beh, ecco l'onore! I soldi! Libertà! Non dimenticare mai questa parola. Libertà. È il vessillo di questa nave. Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi è una puntata particolare perché parliamo di musica. Cosa c'entra la musica? Abbiamo già detto di Katy Perry, che dice siamo degli zombie, perché anche questa cosa viene ripetuta in tante canzoni, non solo da Katy Perry, ma anche i Cranberries dicono che siamo degli zombie, o siamo comunque delle pecore, delle mucche, del bestiame. Questo è quello che dicono nelle canzoni. Quindi andiamo un pochino più a scavare in queste canzoni, almeno questo è il mio punto di vista. Sicuramente tante persone non sono d'accordo con questo mio punto di vista, però io condivido quello che vedo e che sento, e che secondo me, anche perché la musica è stata una di quelle cose che ha iniziato a farmi accendere la lampadina, a darmi quella scossettina che mi faceva, non mi tornavano alcune cose, come nei film. Poi uno dice: accidenti, però sembra che parli delle cose attuali, anche se è un film di fantascienza. E la stessa cosa è nella musica, come ho fatto l'esempio di Matrix o di The Truman Show, tanti altri film. Anche nella musica c'è una piccola verità, una parte di verità, o comunque ti viene detto qualcosa viene accennato. Perché mi è venuta di fare questa puntata sulla musica? Perché per l'appunto è uscita una canzone di Gabbani, quello che ha vinto Sanremo, che a me non piace, però sono gusti, in cui dice una determinata cosa. Nel video, nella canzone, prende in giro un po' tutte le teorie delle cospirazioni, gli UFO, la terra piatta stessa, di fatto che Elvis e Marilyn non sono morti, insomma tutte queste teorie delle cospirazioni. Però la terra piatta le racchiude tutte, perché tutte quelle bugie servono per coprire la verità, perché così c'è chi crede negli UFO, c'è chi crede che quello è stato fatto dal governo, quello è stato fatto dai terroristi. Ognuno crede a una cosa diversa e siamo tutti in disaccordo. Non c'è un pensiero comune, come ho detto, come le api. Dobbiamo avere un pensiero comune, dobbiamo essere uniti. E questo è quello che non vogliono, che siamo uniti, che la pensiamo nel solito modo, che siamo tutti d'accordo su una cosa che ci hanno mentito e ci stanno sfruttando. Quindi andiamo a sentire un attimo, parliamo un po' di questi gruppi, soprattutto dei Queen. I Queen sono stati i primi a farmi, diciamo, pensare un po', soprattutto con queste parole. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. E qui Freddie Mercury dice: stanno cercando di dirti qualcosa, o ti manca quell'ultima vite? Sono questi tipo di frasi nelle canzoni che mi hanno portato a collegare tante canzoni alla Terra piatta, o comunque al fatto che ci stanno mentendo e ci stanno controllando, comunque ci nascondono delle cose importanti. E questo era I'm Going Slightly Mad dei Queen. Però io vi consiglio di guardare i video di quello che vi faccio sentire, perché anche nel video si fanno vedere delle cose che danno da pensare, perché da tipo i Queen, in quel video i Queen prendono in giro l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione, del fatto che veniamo dalle scimmie. E questo perché, tipo, vi faccio questo esempio. I think I'm a banana tree. E qui dice: credo di essere un albero di banane, e c'ha un casco di banane in testa, perché durante il video si vede che c'è in continuazione un tipo un gorilla, oppure c'è uno di loro che fa finta di essere un pinguino. Secondo me prende in giro l'evoluzione. Comunque questo era, almeno per quanto riguarda i Queen, almeno questa canzone. Poi ci sono, perché ci sono tutte le canzoni, quasi tutte le canzoni, penso l'80% delle canzoni, almeno quelle più famose, c'è la verità, c'è un indizio, un qualcosa. Tornando agli zombie, vi faccio sentire cosa dice Katy Perry in questo pezzettino di Chain to the Rhythm. Infatti dice che siamo degli zombie, che giriamo intorno, che siamo incatenati al ritmo, perché ritmo frenetico, perché non facciamo altro che ballare andando avanti e indietro. Qui poi questo video è eccezionale, perché un'idea di quello che dico, di quello che intendo quando dico che nei video ci sono degli spunti, delle idee, un qualcosa, lo vede subito. Se ancora non avete iniziato a vederli, lo vedrete sicuramente. Tempo di poco comincerete a vedere l'occhio è ovunque, i triangoli o numeri tipo il 33 sono ovunque nei video. L'occhio è praticamente ovunque, in tutti i video musicali più famosi c'è l'occhio. Perché? Perché la musica è controllata. Controllata in che senso? Controllata è la, come, mi sembra di essere un po', a parte dico che la terra è piatta, quindi potrei dire qualsiasi cosa, però c'è la massoneria e i massoni dietro queste cose. Come siamo controllati noi, è controllato il governo, è controllato la televisione, i programmi, i telegiornali, la radio, è tutto controllato. E non so, sono sincero, non so perché lo rendono così visibile, però c'è, tipo nell'album di Gabbani, che mi sembra si chiama Magellano, per l'appunto Magellano, che ha fatto il giro di mondo, ma come abbiamo detto il giro di mondo basta fare un cerchio e hai fatto il giro di mondo, non prova che la Terra è una sfera. Quindi Magellano con la mano nell'occhio c'ha il, mi sembra, il binocolo, la lente d'ingrandimento sull'occhio, l'occhio destro coperto. Sono simbolismi che vengono ripetuti continuamente ovunque: pubblicità, video musicali, film, telefilm, è ovunque. Comunque continuiamo con i Queen, che dicono questa, ripetono questo nome Galileo, Galileo, Galileo. Quindi perché ripetere Galileo, Galileo? Questa è la canzone dei Queen, Bohemian Rhapsody, che perché dice Galileo Galileo? Perché Galileo era un massone, faceva parte della massoneria, guarda caso. E sempre nella stessa canzone dice, all'inizio dice anche queste cose. Is this the real life? Is this just fantasy? E dicono, è questa la vera vita o è solo fantasia? Per quale motivo? Perché? No? È fantasia, vita vera, è fantasia. Cos'è questa cosa che è fantasia? Che la vita reale non è reale, ma è fantasia. E come ci dice anche Jamiroquai, il mondo in cui viviamo, ve lo dico io. What we're living in, let me tell ya. E la canzone, infatti, di Jamiroquai è Virtual Insanity, che anche sia il video che le parole della canzone che dicono che il governo è corrotto, che non siamo liberi, le stesse cose, diciamo che ogni canzone ha una sua verità, dice una verità, c'è chi dice che siamo controllati, c'è chi dice che ci mentono, c'è chi dice che la terra è diversa da quello che ci viene detto, però sono tutte piccole verità che le metti insieme ti danno da pensare, perché tutti questi artisti devono dire cose come questa di Jamiroquai. L'insanità virtuale è dove viviamo in questo momento, dove siamo in questo momento, e come ho detto tutta la canzone parla di queste cose. È un'interpretazione mia, vi consiglio di andare a vedere il video, di cercare di aprire le parole e di vederla, di aprire la mente, di cercare di vedere le cose in modo diverso dal solito. Un'altra canzone un po' vecchiotta dei Beatles che mi ha dato un grande calcio nel sedere quando ero a cercare le mie cose. Il grande calcio è stata una canzone dei Beatles, The Fool on the Hill. Sentite cosa dice. On the hill, sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. È incredibile questa canzone. Dice: ma lo sciocco sulla collina vede il sole andare giù e il mondo girare. No? che canzone è? Nel senso, per quanto possano essere stati bravi, fantasiosi e tutto il resto, però è una cosa che continua a ripetersi, questa che ci dicono che siamo pazzi, che vediamo il sole andare giù, perché in realtà non scende, come abbiamo detto, è prospettiva. Un aereo che ci passa sopra non è che scende o sale, va a diritto alla solita altitudine, noi magari ci sembra che scende, ma in realtà non scende, va a diritto, e la stessa cosa fa il sole. Ecco perché la canzone dei Beatles dice queste cose, secondo me. Poi chi altro ci possiamo mettere? Abbiamo detto Gabbani, sentiamo il pezzo di Gabbani, cosa dice. Sai, la terra è piatta, hai dominato ormai. Che la terra è piatta e dominata ormai, lo dice finalmente, lo dice anche qualcuno in italiano, non solo in inglese. Quindi cos'altro c'è da aggiungere alle parole di Gabbani? Niente. Sentiamo cosa dice però, sempre sullo stesso discorso, Damian Marley in Patients, la canzone. The earth was flat, if you went too far you would fall off. Now the earth is round, if the shape changed again everybody would have started love. Qui dice: la terra è piatta, se vai troppo lontano potresti cascare di sotto. Ora è rotonda, se cambiasse di nuovo forma tutti si metterebbero a ridere. anche qui il video e anche tutto il resto della canzone ne ha da dire tante su questo discorso. Quindi vi consiglio di sentire e di vedere anche questo video e questa canzone di Damian Marley. E poi abbiamo i Red Hot Chili Peppers con Californication, che sentite cosa dicono. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Dicono: lo spazio è l'ultima frontiera, ma è stato fatto a Hollywood, in un fondo di Hollywood. E qui richiamo a me Gabbani, che ci ripete un'altra cosa su riguardo alla Terra e all'atterraggio lunare. Non esiste prova alcuna dello sbarco sulla Luna. E come dargli torto? Ha proprio ragione, quello che dico io da tante puntate: non c'è nessuna prova dell'atterraggio lunare. È quello che mi ha fatto scavare per cercare la vera forma della Terra, per cercare la verità. Riguardo allo scavare, c'è una canzone dei Nothing More, ovviamente c'ha qualche indizio, c'è qualche indizio che li mettiamo tutti insieme canzone per canzone e viene fuori un bel discorso in cui ti dicono che tu sei controllato, che devi scavare. Sentiamo i Nothing More. Keep on digging deep, keep digging deep, keep digging deep, we can't die. E loro cosa ci dicono? Che dobbiamo continuare a scavare, dobbiamo continuare a scavare. Nonostante tutto, nonostante tutte le prove che abbiamo, non ci fermiamo a vedere quello che ci succede intorno, i cambiamenti, che c'è da vedere. Non ci siamo abituati a un degrado mondiale, non ci interessa più niente, pensiamo solo a noi stessi. È sbagliato. Noi, perché siamo un noi, siamo, potremmo essere tutti fratelli, non è perché non siamo, ora vo troppo sull'ippi, però non ci dobbiamo fare la guerra, non ha senso, ci dobbiamo aiutare. E come dicono i Queen, dobbiamo guardare al cielo e capire cosa vediamo. Open your eyes, look up to the skies and see. Apriamo gli occhi, perché ci dobbiamo svegliare. Ci dobbiamo svegliare, come dicono i Coldplay in Fix You. Dice all'inizio della canzone, dice un po' come nei Queen. Dice: ci dobbiamo svegliare, dice una frase interessante, poi la analizziamo un pochino. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Quando siamo così stanchi da non poter dormire, ma bloccati all'incontrario. Cioè, che dormiamo così tanto da non poterci svegliare. E qui il collegamento dei film, Matrix, le canzoni. Però alcune canzoni sono uscite prima di Matrix, altre canzoni invece sono uscite dopo. Non solo dei Coldplay, ma comunque di tanti gruppi, come per esempio i Queen, ci dicono le stesse cose. Tutte le canzoni ci dicono le stesse cose, ora sono un po' più dirette, come Gabbani, ci dicono che la Terra è piatta, ce lo dicono direttamente, o come Damian Marley, ma il punto principale è che cercano di darci un messaggio. Secondo me, questo è il mio parere, la musica ha sempre cercato di dare un messaggio, poi andando avanti è diventata più commerciale, tende più a vendere, alla fine se tu vai a vedere alcune canzoni ora non hanno nemmeno un testo sensato, però queste canzoni, le canzoni vere, sono canzoni che ti danno da pensare, che ti trasmettono qualcosa. E io vi consiglio di cercare anche il vostro gruppo preferito e di provare a cercare questi collegamenti che sicuramente troverete, perché lo trovate anche in Max Gazzè o in tanti gruppi che non credevo assolutamente potessero avere a che fare con questa cosa. Mi sono ritrovato a sentirmi dire che sono un robot da uno dei miei gruppi preferiti, quindi insomma, con questo io vi saluto, grazie per essere stati con me, spero non sia stata una puntata troppo caotica, e grazie a Radio Big World e alla prossima, ciao.